Sara, principessa, il cui nome è menzionato con riverenza nelle scritture. La scena si svolge a Hebron, 2000 anni prima di Cristo. Sara ride non perché è felice, ride per quello che ha sentito dire. Lei, una donna di 82 anni, partorirà un bambino. Un figlio! Impossibile! Sia Sara sia il marito sono troppo vecchi per un bambino. E, biologicamente, impossibile che lei possa portare alla luce un figlio, nonostante abbiano aspettato tutti questi anni. Dio stesso aveva loro promesso un figlio 25 anni prima, ma la promessa non era stata adempiuta. Doveva forse trattarsi di un errore? Sara ripensò a quegli anni. In quel periodo abitavano a Ur dei Caldei, un centro di cultura e di commercio nel sud della Mesopotamia. Benché Ur non fosse più ricca e fiorente come un tempo, poteva ancora provvedere un'esistenza ricca ai suoi abitanti. L'abilità dei suoi artigiani era superata solo da quella degli egiziani. Le navi nel suo porto portavano merci dall'Oriente, che venivano scambiate col grano che cresceva in quelle zone. Molti cittadini erano ricchi ed abitavano in case spaziose. Sara ed Abramo avevano vissuto serenamente ad Ur per molti anni, tra amici e parenti, ma un giorno accadde qualcosa che cambiò la loro vita radicalmente. L'Eterno si era fatto vedere ad Abramo in modo glorioso, così glorioso, da aver rimosso nel patriarca ogni dubbio sulla sua identità. Questo era il vero Dio, non il Dio Luna che i padri di Abramo avevano adorato. L'Eterno Dio ordinò ad Abramo di lasciare quella regione e i propri parenti per trasferirsi in un paese che egli avrebbe indicato. L'ordine era stato dato insieme ad una promessa: ed io farò di te una grande nazione, e ti benedirò, renderò grande il tuo nome, e tu sarai di benedizione. Sì, io benedirò coloro che ti benedicono e maledirò coloro quelli che ti maledicono, ed in te tutte le famiglie della terra saranno benedette. Abramo obbedì immediatamente e Sara si adattò alla decisione del marito. All'improvviso, da cittadini di una ricca città piena di conforti, divennero seminomadi. Come succede a molte, certamente Sara non trovò facile lasciare la sua casa e i suoi cari per affrontare un futuro ignoto, ma aveva obbedito a suo marito e aveva confidato in quel Dio che aveva parlato a suo marito. Per mesi essi viaggiarono, spostandosi lentamente a causa degli animali. Finalmente giunsero ad Aran, 900 chilometri a nord di Ur. Rimasero lì per un po' di tempo, e per loro la vita fu più comoda, ma non lussuosa come era stata ad Ur. Tuttavia, era sempre molto meglio del periodo del viaggio. Ripartiti, poi si fermarono di nuovo, stavolta un po' più a sud. A questo punto, molto probabilmente, un po' della sicurezza di Sara sarà svanita. Fu allora che morì il loro padre Terà. Il loro padre, perché Sara era sorellastra di Abramo, cosa che non era fuori del comune a quei tempi, dal momento che le opportunità di sposarsi erano molto limitate e spesso ci si cercava il compagno fra il cerchio familiare. Con la morte del padre e l'assenza dei parenti che erano rimasti a Teheran, Sara si sentì ancora più sola. Solo Lot, un cugino, viaggiava con loro. Nonostante avessero lasciato tanti beni, due cose rimanevano immutabili. Prima di tutto, continuavano a credere nelle promesse di Dio e pensavano di essere ancora in grado di avere un bambino, nonostante l'età. Abramo aveva 75 anni e lei 65. Per seconda cosa, continuavano a vivere nel rispetto e nell'amore reciproco. Non era facile. Come Abramo, Sara aveva una forte personalità, un certo carattere. Aveva fatto del suo meglio per adattarsi al marito ed ubbidirgli, è vero. Ma Sara aveva una testa sua e, anche sottomettendosi al marito, godeva di una certa libertà interiore. Spesso Sara rifletteva su queste cose ed era convinta di questo, che la sua relazione col marito era stata determinata dalla sua relazione con Dio. La sua fiducia in Dio la faceva una donna fedele e forte, capace di affrontare la vita con coraggio e di vivere in armonia col marito. aveva ubbidito ad Abramo ed aveva dato a lui il primo posto nella sua vita, dal canto suo. Abramo la rispettava, ascoltando i suoi consigli e la onorava della sua amicizia. Erano amici e anche amanti. Insieme discutevano le cose che riguardavano la giornata. Dal momento che erano in comunione con Dio e in comunione fra loro, il loro matrimonio e la loro vita spirituale erano più forti che mai. Il tempo era passato, ma non avevano avuto ancora figli. Nel frattempo erano andati a Sicem, dove già Viace si era fatto vedere ad Abramo e aveva rinnovato la sua promessa. «Tu avrai discendenti e io ti darò questa terra». Alla fine avevano raggiunto la loro destinazione e ancora erano speranzosi riguardo al figlio promesso. Per gratitudine Abramo costruì un altare all'Eterno, ma a causa di una grande carestia abbattutasi sul paese, Abramo, senza chiedere consiglio a Dio, si era spostato di propria volontà verso sud per poter trovare cibo per la sua famiglia e per il bestiame. Andarono in Egitto, una direzione che a Dio non piaceva. La vita non era facile in Egitto, perché Sara era bellissima, e, pensando che gli egiziani per poterla avere lo avrebbero ucciso, temeva per la propria vita. Così Abramo le aveva detto: «Per favore devi dire che sei mia sorella, così non cercheranno di uccidermi». Per paura, quindi, Abramo aveva trovato rifugio in una bugia. Eppure era un uomo che aveva avuto fiducia in Dio per tanti anni. Ma anche una grande virtù non impedisce di commettere certi errori. Che ne è del suo amore per me? Si sarà chiesta Sara. Può anche darsi che, all'inizio delle loro peregrinazioni, si fossero accordati per usare questa tattica. La loro coscienza trovava pace perché in realtà non si trattava proprio di una bugia. Teoricamente questo sembrava accettabile, ma in realtà non è improbabile che la donna si sentisse tradita. Come Abramo aveva previsto, la bellezza di Sara era stata notata e lei andò a finire nell'harem del faraone. Abramo, per paura di morire, non solo aveva messo in pericolo l'incolumità della donna, ma Sara sentiva anche che il suo uomo aveva agito senza tener conto del figlio promesso. Ma Dio, nel quale lei aveva fiducia, intervenne. Attraverso tormenti e grandi piaghe, Dio rese chiara la situazione ad Abramo. Intanto erano tornati al paese che l'Eterno aveva promesso loro, portando con sé una giovane schiava egiziana. Gli anni continuavano a passare, ma, senza il figlio promesso, poteva darsi che Abramo si domandasse se per caso la promessa di Dio prevedesse un figlio adottato. In quel caso si sarebbe trattato di Eliezer, l'uomo più importante del suo casato. Ma non era certo questo il piano di Dio. La promessa di un discendente rimaneva immutabile perché era stata confermata da un giuramento. Benché l'Eterno avesse ripetuto le sue promesse, era stato lento ad adempierle. Sara sapeva per esperienza che vivere per fede significava non solo soffocare il ragionamento umano, ma anche essere molto paziente. La fede e la pazienza vanno di pari passo e non possono essere comprate come della merce, ma si imparano attraverso la difficile scuola della vita. Perciò Sara ed Abramo dovettero imparare che la fede è ancorata al solido terreno delle promesse di Dio, non alle sabbie mobili delle possibilità umane. Ma erano diventati impazienti. Sara, rendendosi conto del fatto che gli anni in cui poteva concepire figli erano passati, suggerì ad Abramo di prendere Agar, la serva egiziana, come concubina. Esteriormente, lei si era adattata ai costumi di quei tempi. Dopotutto, queste cose succedevano frequentemente. Naturalmente, aveva una valida scusa per la sua azione, il contratto di matrimonio nel quale aveva promesso un figlio al marito. Ma quello che aveva fatto era sbagliato, perché mancava di fede. L'abnegazione di se stessa l'aveva portata ad un grande sacrificio. Dobbiamo però riconoscere che Sara aveva un'altra scusa. Dio, infatti, non aveva promesso che lei avrebbe partorito il figlio. Ma il suo sacrificio fu inutile, perché aveva voluto vedere, ad ogni costo e nel momento da lei prescelto, l'adempimento della promessa di Dio. Il vero problema di Sara, naturalmente, non fu prima mancanza di pazienza, ma il fatto di aver cercata una soluzione da sola. aveva voluto agire in prima persona e, ora, doveva pagarne le conseguenze. Che cosa aveva spinto Abramo ad ascoltarla? Questo non ci è chiaro, anche se è certo che pochi avrebbero fatto diversamente, ma come Adamo prima di lui. Egli pagò le conseguenze per aver ascoltato l'invito della moglie. Le conseguenze furono evidenti quasi subito e l'impazienza aveva cominciato a dare i suoi frutti. La casa di Abramo stava per essere rovinata dalla contentezza e dalla mancanza di pace. Agar aveva preso un atteggiamento di superiorità e Sara, dimenticando di fare un esame di coscienza e di pentirsi, invece aveva accusato il marito per le umiliazioni inferte da Agar. Se Dio non fosse intervenuto, la giovane schiava probabilmente sarebbe morta per colpa di Sara. Sara si era degradata, aveva imparato che una persona potente e istruita può esercitare appieno il suo potere quando si allontana da Dio. Sara voleva vincere sul tempo. Probabilmente questo atteggiamento procura invece una perdita di tempo. 13 anni prima, Jawesh si era fatto vedere ad Abramo. Come si era sentita Sara durante tutto questo tempo? Un giorno Abramo si riposava sotto la tenda e, ad un tratto, dal nulla, vide tre uomini che stavano davanti a lui. Egli subito li ospitò. All'ora di pranzo Sara era rimasta in disparte, come era costume in Oriente dove il mondo era dominato dagli uomini. Ad un certo momento, però, la sua attenzione fu attratta dalle parole di uno degli ospiti. «Dov è tua moglie, Sara?» Sara aveva pensato: «Chi sono questi uomini? Come fanno a conoscere il mio nome? Che cosa sanno ancora di me?» Abramo aveva risposto: «E nella tenda!» Poi ecco agli orecchi la dichiarazione sorprendente: «Io ritornerò da voi fra un anno e tua moglie Sara avrà concepito un figlio». Gli ospiti erano ancora seduti con la schiena verso la tenda. Sara sentiva che non sarebbe stata notata. Era sola con i suoi pensieri ed il suo cuore rideva di queste parole. Quegli ospiti erano persone ben educate, dei veri gentiluomini, perché dimostravano a loro gratitudine per un minuto ospitalità, augurando ad Abramo un figlio. Ma ad un tratto le sue riflessioni cessarono e, meravigliata, Sara sentì che i suoi pensieri venivano ripetuti ad alta voce. «Perché ride Sara dicendo: io non concepirò un figlio alla mia età?» Le parole dell'ospite la gelarono. «Ci è qualcosa di troppo difficile per l'Eterno, l'Eterno». Fu allora che Sara lo riconobbe come Abramo lo aveva già riconosciuto. Giahacia era disceso dal cielo per parlare a lei e confermarle la promessa personalmente. «In questo periodo, quest'altro anno, io tornerò e Sara avrà un figlio». Sara rimase talmente colpita che negò la sua mancanza di fede e disse: «Io non ho riso». Ma l'Eterno replicò: «Sì, tu hai riso». Perché l'Eterno non le aveva parlato direttamente? Forse perché era uso orientale parlare alla donna per mezzo del marito, o forse per ricordare ad Abramo che egli, come sua moglie, aveva messo in dubbio le parole di Dio per mancanza di fede. Infatti, non molto tempo prima, l'Eterno aveva promesso un figlio e successivamente ne aveva dato conferma. Ma anche Abramo aveva perduto la speranza di avere un erede da Sara. Era soddisfatto di avere Ismaele dalla schiava Agar ed aveva pregato che Dio lo accettasse come suo successore. Ma ora, per la prima volta, l'Eterno disse esplicitamente che il figlio della promessa sarebbe stato partorito da Sara. Per suggellare tale impegno, Dio cambiò i loro nomi. Ad Abramo fu cambiato il nome in Abramo, che significa padre di una moltitudine, mentre a Sara fu cambiato in Sarai, che significa principessa. Giaveh non aveva creduto. Sufficiente avvertire soltanto Abramo che il tempo di attesa era ormai finito. Era venuto personalmente perché anche Sara ne fosse informata. L'anno dopo, nel periodo divinamente stabilito, il figlio nacque. Il nome ordinato da Dio, Isacco, significa «quello che ride». Finché sarebbero vissuti, Isacco avrebbe ricordato ai suoi genitori il fatto che con la loro incredulità dietro al suo nome avevano messo un punto interrogativo, mutato poi da Dio in punto esclamativo. I risultati dell'errore di Sara nel volere che Agar diventasse la concubina di Abramo furono molto seri. Poiché Ismaele durante la festa per il suo svezzamento aveva deriso Isacco, Sara insisté affinché Abramo scacciasse Agar e Ismaele. Abramo provava dolore in cuor suo perché amava anche l'altro figlio, tuttavia l'Eterno gli disse di ascoltare Sara. Così mandò via la donna egiziana col suo bambino. Come la storia ha provato, Dio amò anche loro, ma ci fu una distinzione fra le discendenze di Isacco e di Ismaele. Sara visse solo 37 anni dopo la nascita di Isacco, così non vide la miseria e il contrasto tra i discendenti dei due figli di Abramo. Infatti gli arabi, discendenti di Ismaele, e i giudei, discendenti di Isacco, sono stati perenni nemici, e a millenni di distanza, i problemi del Medio Oriente aspettano ancora una soluzione. Che triste, per Sara, che una sua azione d'impazienza abbia avuto delle conseguenze così durature. E triste anche che la sua memoria sia stata macchiata da questo fatto. Tuttavia, al capitolo 11 della lettera agli Ebrei, la prima donna presentata nella galleria della fede è proprio Sara. E, ricordata con onore per la fede che aveva e non per le sue mancanze. La sua fede, magnificamente illustrata alla nascita di Isacco, crebbe senz'altro durante la sua lunga vita. La sua vita richiese molti sacrifici. Dovette astenersi da molte cose che amava e voleva, sopportò sacrifici e delusioni, tutto senza lamentarsi. Sara fu pronta ai cambiamenti di situazione, adattandosi al marito. Per la sua ubbidienza ad Abramo, ella fu per il marito un aiuto nell'assoggettarsi a Dio. Recenti studi dimostrano che le cattive emozioni possono prendere una persona ammalata. Dicono anche che le buone emozioni, dalla serenità e dalla felicità, danno bellezza fisica, buona salute e lunga vita. Poteva essere questo il segreto della bellezza esteriore e della vitalità di Sara? Pietro loda Sara per la sua bellezza interiore e fa un appello a tutte le donne di seguire il suo esempio, perché Sara è veramente una principessa tra le donne. Studio facente parte di 21 trasmissioni Donne della Bibbia tratti da qualche parte e rivisti,